Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Oggi è la festa dell'esaltazione della croce, una festa che ricorre appunto il 14 di settembre perché secondo la tradizione la mamma di Costantino, Sant'Elena, ha ritrovato la croce stessa di Gesù proprio il 14 settembre del 320. Quindi in questo giorno noi siamo chiamati a onorare, ad adorare la croce di Gesù. Perché? Che cos'è questa croce di Gesù? Gesù ce lo fa scoprire attraverso questo dialogo con Nicodemo. Chi era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo. Era il membro del Sinedrio ed era un uomo rispettabile, un uomo di Dio, un uomo che nonostante fosse appunto fariseo, era lo stesso molto incuriosito dalla presenza di Gesù. E lui non cercava Gesù, ma nello stesso tempo ha incontrato il Signore, ha incontrato Gesù. Non lo cercava nel senso che non, lui era un maestro della legge, quindi sapeva come doveva comportarsi, sapeva legiferare, sapeva come condurre il popolo, però lo stesso è colpito dal Signore, anche se non l'aspettava. E quindi di notte va da Gesù. E va da Gesù e cerca di capire perché vuole capire come mai Gesù è così diverso da tutto quello che Nicodemo stesso sta tramandando, ma nello stesso tempo esaudisce in pienezza tutti i desideri di ogni uomo. E quindi Gesù lo affascina ancora di più con la sua parola. E in questo dialogo noi scopriamo proprio il segreto del motivo per cui noi festeggiamo l'esaltazione della croce, perché la croce è il simbolo dell'amore di Gesù. È questo che affascina Nicodemo. Nicodemo fino allora aveva pensato che la salvezza fosse una questione di regole, una questione di leggi, una questione di rispettare i comandamenti. Ecco, adesso capisce attraverso il dialogo con Gesù che la salvezza è un dono dall'alto, è un dono che si riceve, è il dono dell'amore di Dio che viene riversato in noi e quindi la salvezza è un dono immeritato che richiede da parte nostra gratitudine, ma è un dono gratis, gratis che viene dato e offerto a tutti quanti. E preghiamo perché possiamo ricevere questo dono e possiamo far capire a tutti quanto è importante vivere ringraziando il Signore di questo dono, perché già vivendo così si sperimenta da qua giù la salvezza. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi, diamoci da fare perché veramente tutti possiamo essere salvi ed è possibile questo, con l'aiuto di Dio è possibile perché Dio lo vuole. E dobbiamo noi collaborare al piano di Dio di questa salvezza, far conoscere la salvezza del Signore e come cambia la vita. Quando uno si sente amato, la vita è completamente diversa. Provate a vedere la differenza che si vede proprio anche sul volto di una ragazza quando si sente amata da un ragazzo, quando finalmente ha trovato l'amore della sua vita, questa ragazza irradia luce. È splendente, il suo sguardo è luminoso. Perché? Perché si sente amata. E noi vogliamo far capire e far sperimentare alle persone che incontriamo oggi l'amore di Dio, perché vogliamo cambiare la loro vita, perché quando uno si sente amato, apprezza la vita, ama la vita, vuole trasmettere vita, vuole donare la vita. Allora che la nostra giornata oggi sia illuminata da questa croce del Signore, simbolo del suo amore, possiamo noi sperimentarlo in prima persona questo amore, sentirci amate e far sentire attraverso di noi anche le altre persone amate in modo che tutti siano salvi e giungano alla conoscenza della verità, perché questa è la volontà di Dio. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio. Buona giornata.